Era un ordigno calibrato per uccidere, ma soprattutto per lanciare un segnale forte ai vivi. E questa è la prima impressione degli inquirenti sull'attentato mafioso di sabato mattina a Gioia Tauro contro un imprenditore, Nino Princi. Le sue condizioni sono gravissime ma stazionarie. A Princi, che ha perso la vista, sono state amputate anche braccia e gambe. L'esplosione lo ha investito mentre camminava verso l'auto nel cortile della sua abitazione. La bomba era sotto il paraurti anteriore ed è stata fatta esplodere con un radiocomando. Gli inquirenti stanno indagando sugli interessi economici di Princi, soprattutto nel settore dell'abbigliamento e della grande distribuzione commerciale. La moglie dell'imprenditore fa parte della famiglia Rugolo, collegata, secondo gli esperti, alla cosca Mammoliti di Castellacce di Oppido Mamertina. E dopo l'attentato a Princi, l'ex presidente di Confindustria calabrese, Filippo Calipo, rilancia la sua proposta di utilizzare l'esercito in Calabria. Secondo me la prima cosa immediata, domani mattina, dovrebbero sbarcare qui con l'esercito, controllare tutte le strade, controllare i movimenti di tutti i cittadini calabresi, compresi i malavitosi, e rendergli la vita più difficile. E nella notte fra sabato e domenica, l'automobile del comandante della caserma dei carabinieri di Stilo nella Locride è stata incendiata da ignoti. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore.